Atti e Misfatti. Ogni martedì gli atti, i fatti e i misfatti di femministe e lesbiche in Italia e a volte anche nel mondo. Dalle 18.15 alle 19.30 sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. Sempre all'ascolto di Onda Rossa, questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche, a brevissimo una nuova puntata di Atti e Misfatti. Oggi cominceremo con un approfondimento sul DDL femminicidio, avremo in studio una compagna di un collettivo femminista romano, Le Ribellule, che ha scritto insieme alle sue compagne un comunicato, un documento in cui analizza questo decreto. Poi avremo in collegamento con noi una compagna del Centro Donna Lisa, un centro antiviolenza di Roma col quale collaboriamo spesso per le analisi, insomma, di tutto ciò che affrontiamo nel martedì. In collegamento con noi, come preannunciato, una compagna del Centro Donna Lisa, un centro di violenza col quale, insomma, abbiamo collaborato tante volte, che avete già sentito tante volte da questi microfoni. Invece in studio con noi c'è una compagna del collettivo Le Ribellule. Volevamo iniziare insieme ad analizzare, a dire due parole su questo decreto sul antifemminicidio, perché così è stato nominato. Un decreto che, diciamo, se vogliamo fare una considerazione iniziale, riposiziona la donna come vittima, l'eleva per molti, insomma, articoli e per molte cose la possibilità di autodifendersi e di scegliere da sola la sua difesa. Insomma, un decreto che non, diciamo, non ci ha soddisfatte. Non so se tu sei d'accordo al telefono. Ciao a tutti. Ciao. Condividiamo come centro, e non solo come centro, come altre donne e associazioni con cui siamo in rete, come centro antiviolenza, le cose che dicevi. È un decreto che innanzitutto si caratterizza come un decreto omnibus di funesta memoria, come tradizione, dove c'è dentro un po' di tutto, e quindi questo, la parte sul femminicidio in realtà risulta, sembra più essere un po' lo specchietto per le allodole, perché poi insieme c'è il secondo capo, che è quello invece sulle norme in materia di sicurezza, che non fanno altro che andare a reprimere il dissenso. Quindi una delle critiche che facciamo a questo decreto è che, voglio dire, è comunque un decreto che reprime il dissenso, è un decreto che mette insieme un sacco di cose con le quali la lotta alla violenza contro le donne, femminicidio, non c'entra. E soprattutto connota la lotta contro la violenza contro le donne soltanto per il suo aspetto poliziesco, che assolutamente non è quello che le donne, che il movimento delle donne, che da decenni si impegna nella lotta contro la violenza delle donne, ha chiesto e vuole e serve come strumento. Sì, vai, scusami. No, figurati. E le cose che ci teniamo a dire è che da subito questo decreto non ci è piaciuto, e che quindi, come associazione di cui facciamo parte, un'associazione nazionale dire che è Donne in Rete contro la violenza, alla quale aderiscono più di 60 centri nazionali, che detti così sembrano tanti, invece sono assolutamente sufficienti per la richiesta che c'è da parte delle donne che si rivolgono ai centri, sono insufficienti soprattutto come posti dove trovare ricovero, alloggio in momenti di particolari crisi di necessità di fuga dalla relazione violenta. Appunto, con questa associazione da subito sono state fatte dure opposizioni. Il risultato di queste opposizioni ha portato a delle piccole, delle modifiche che hanno leggermente migliorato la parte rispetto al femminicidio, non però cambiando la struttura di base, che è quella che più fortemente condanniamo. Cioè tutte le norme sono comunque nella direzione della repressione poliziesca e minimamente affrontano invece quello che è il discorso di base, che è il discorso culturale da una parte, e dall'altra quello di fornire alle donne e alle associazioni che aiutano queste donne strumenti per reali percorsi di uscita. Questi strumenti sono innanzitutto appunto disponibilità di posti di accoglienza per donne che devono fuggire, per loro e per i loro eventuali figli, il discorso il diritto a una casa, diritto a un lavoro, che sono le basi per poter realmente costruire un percorso di uscita. E l'altra cosa, una di tante altre cose, è il fatto che questo decreto appunto continua a parlare di emergenza violenza, cosa che assolutamente non è un'emergenza, perché purtroppo è la violenza contro le donne è un dato strutturale nella nostra società, dove tra l'altro il femminicidio è soltanto la punta, è il limite estremo, assolutamente gravissimo, ma è comunque un limite estremo, e c'è tutto l'altro grossissimo pezzo di violenza quotidiana che le donne subiscono nelle relazioni interpersonali, ma anche da parte delle istituzioni dalle quali non trovano risposta, e comunque da un atteggiamento violento nei confronti delle donne in tutta la nostra società. Anche in questo decreto si continua a parlare di donne come soggetto debole, quindi soggetto da proteggere, e cosa che chiaramente non è assolutamente per noi condivisibile. E l'altra cosa che ci teniamo a sottolineare è che ancora una volta questo decreto, tra l'altro, permette alla società maschile in genere di dire che l'uomo violento, scusatemi ma sono in mezzo alla strada, l'uomo violento, l'uomo che uccide è altro da me, è un reo, quindi io colpisco il reo, chiamando così fuori tutto il, appunto, il grosso pezzo culturale che invece è il brodo in cui prolifera, cresce e si perpetua questa cultura dalla quale poi escono gli episodi di femminicidio. C'è da dire come dato statistico che il discorso emergenziale non ha senso neanche dal punto di vista dei numeri, perché la stessa pubblica sicurezza nei dati degli ultimi due anni, 2011-2012 mi sembra, comunque pubblicava dati secondo i quali il numero totale degli omicidi, quindi di uomini e donne, era nella sua totalità calato, mentre resta assolutamente drammaticamente costante il numero dei femminicidi. Quindi da questo pure ancora una volta sottolinea che questo discorso di emergenzialità non ha né capo né coda. Non so se c'è anche la compagna in studio che vuole aggiungere qualcosa, e poi magari posso intervenire come preferite, anche di voi. Sì, va bene. No, volevo continuare a sottolineare il fatto che appunto l'emergenzialità di questo decreto sia stata comunque sottolineata anche dall'associazione con per esempio i terremoti o altri disastri ambientali che sono contenuti nello stesso decreto Omnibus, no? Esattamente. E quindi, che ne so, il finanziamento ai vigili del fuoco in situazione di emergenza è contenuto nella stessa norma che vorrebbe tutelare le donne, tra virgolette. Poi l'altra cosa che veramente mi premeva, diciamo, è che questo è stato fatto molto più intelligentemente dei passati, perché se vogliamo in passato abbiamo avuto pacchetti sicurezza che in nome delle donne controllavano, adesso abbiamo il decreto legge sul femminicidio che controlla. quindi è stato un po' ribaltato il discorso, anche perché comunque secondo me ci sono state delle pressioni dai movimenti delle donne, però insomma, ribaltando il discorso, poi non è stato cambiato il contenuto. Cioè, alla fine abbiamo il braccialetto elettronico, le intercettazioni telefoniche e tutte cose che dovrebbero essere a tutela delle donne, ma che poi in realtà sono semplicemente provvedimenti di controllo che vanno aumentando. E poi questo secondo me un pochino richiama anche la questione della questione umanitaria che viene portata avanti per sempre appunto per controllare più efficacemente a livello sociale, come stanno facendo adesso con il disastro a Lampedusa. Adesso si mettono appunto sulle frontiere i droni e le cose, quindi comunque i corpi veramente vengono utilizzati in maniera assolutamente come si può dire, strumentale per portare avanti dei provvedimenti repressivi. Cioè, ci stanno addirittura nel decreto, appunto in questa legge, ci stanno addirittura provvedimenti contro gli ultras. Ora, che cosa c'entrano con le donne? Cioè, sicuramente questo il fatto di averlo sventolato ai quattro venti come il decreto contro i femminicidi è servito semplicemente per cercare di far passare sotto silenzio tutta un'altra serie invece di norme ben più gravi e appunto quelle che citavi tu, ma appunto ripetiamolo in maniera molto chiara, di repressione del dissenso, di lotte radicate e veramente di opposizione sociale come No TAV, come No MUOS, il No Ponte, queste realtà di lotte e di movimento molto grosse, che sono cose che sono state taciute. Non a caso noi fin dall'inizio abbiamo detto non vogliamo fare lo specchietto delle allodole per nessuno, insomma. Un reato odioso come quello del femminicidio in realtà appunto è servito da una parte a mascherare appunto queste altre manovre, e diciamo anche che il fatto dell'urgenza che ha avuto questo governo, questo Parlamento di emanare questo decreto che ora è diventato legge dall'11 ottobre era quello il fatto che l'Italia rischiava delle sanzioni da parte della Comunità Europea perché non aveva una legislazione mirata contro questo reato. Quindi appunto l'uso strumentale è veramente qualcosa di molto abietto. L'altra cosa molto importante è che da sempre la cosa che il movimento delle donne e dei centri antiviolenza ha chiesto non è l'emergenzialità, non è un piano straordinario, ma un tavolo serio, costante di programmazione e di costruzione di un piano nazionale antiviolenza. E di questa roba dentro questa legge non c'è niente, perché comunque si continua anche per quelle piccole parti migliorate rispetto al fatto di nominare i centri antiviolenza, comunque non c'è nessuna costruzione di un tavolo programmatico e stabile che quindi monitorizzi e che costruisca realmente strumenti per una lotta reale contro la violenza contro le donne. Quindi sono tutta una serie di norme che in parte quelle immesse, diciamo, dopo appunto le tante anche proteste, i tanti emendamenti fatti da parte anche di donne in Parlamento sotto la spinta delle donne dell'associazione Dire, come ripeto, di modifica, sono passate, ma sono comunque norme che così strutturate soltanto come strumento poliziesco non servono più di tanto a poter cambiare quella che deve essere invece sia la cultura che gli strumenti che le donne che subiscono violenza e i centri che le accolgono hanno in mano per combattere. Sì, e poi c'era un'altra cosa. No, dicevo che un'altra cosa, diciamo, simpatica era quella sulle migranti, no? Che ci sta appunto questa cittadinanza, cioè non cittadinanza, questo permesso di soggiorno garantito alle migranti che vivono in una situazione di violenza, che però può essere tolto qualora esse escano dalla situazione di violenza, praticamente. Quindi non si capisce bene come questa cosa andrebbe gestita, secondo chi ha fatto chiaramente questa legge. Ma poi ovviamente questa cosa ancora una volta sicuramente è soltanto vincolata alla denuncia, perché infatti l'altra cosa che volevo aggiungere è che l'impianto del appunto delle donne come soggetti deboli da tutelare sono nella logica di questa legge da tutelare in senso ancora una volta unicamente giuridico o repressivo, perché comunque la revoca non c'è possibilità di revoca della denuncia. Cioè adesso è stata emessa questa cosa che si può revocare, ma semplicemente in prima udienza, quindi significa che al processo ci si arriva uguale e quindi comunque tutto il periodo che intercorre fra la denuncia e la prima seduta di tribunale la donna non si capisce bene come si possa tutelare, visto che i centri sono insufficienti, possibilità di allontanarsi da casa nella maggior parte dei casi le donne non ce l'hanno e quindi praticamente una volta che arrivano alla prima udienza sono già state più o meno strangolate da questo sistema giuridico. Vi posso dire che per esperienza le donne che abbiamo accolto dalla riapertura del nostro centro, perché noi non abbiamo la casa dove le donne possono dormire, e da quando abbiamo riaperto a fine agosto, inizio di settembre, tutte le donne che sono venute hanno detto poi adesso non c'è possibilità di revoca, di querela. Quindi questo le donne hanno ben chiaro che cosa significa e per loro è un ulteriore ostacolo notevole alla loro autodeterminazione, alla loro uscita dalla violenza, perché la paura che ingenera la denuncia è innegabile ed è una paura reale rispetto a eventuali ritorsioni. Quindi bene che la vogliamo definire, la possiamo definire una miopia, poi ovviamente è possibile invece essere meno gentili e ipotizzare altre idee su perché sia stata messa questa irrevocabilità della denuncia. Che può essere fatta anche da terzi, tra l'altro, adesso. Può essere fatta anche in fragranza, sì, in fragranza di reato. E comunque può essere fatta su chi è da parte di chi ha conoscenza dei fatti, però chiaramente ci sono dei paletti su quali devono essere le caratteristiche e le possibilità per scorgere denuncia, però ma anche senza questo, voglio dire, il semplice fatto di sapere che appunto una volta che l'hai fatto non hai più possibilità di revoca chiaramente è una cosa che è un grosso macigno che le donne sentono, insomma, ovviamente. E poi da una parte avrebbe potuto avere il significato di assunzione di responsabilità dello Stato, ma questa cosa decade nel momento in cui intorno a questo non c'è nessun altro tipo di sostegno reale che lo Stato dà alle donne. Sì, non è che poi, fra l'altro, dare le denunce, cioè fare la denuncia sia semplice, perché poi nel senso capita anche che ci siano donne che comunque non riescono a fare la denuncia perché dal poliziotto di turno gli viene detto sarà solo una scaramuccia o quello che è, no? Cioè nel senso Sì, questo è una costante che purtroppo le donne, ma anche quando noi talvolta in condizioni particolari accompagniamo le donne ai commissariati o alle carabinieri, diciamo è un ostacolo che ci si trova davanti. Probabilmente con questo decreto, con questa legge, avranno un po' meno possibilità di farlo, da una parte, e dall'altra diciamo che sicuramente una cosa sarà anche quella di stanza, poi dopo non la può più revocare, quindi si decida o sì o no, insomma, no? Nel senso, anche nei posti di polizia o dei carabinieri è possibile che venga esercitata una pressione per veda un po' che debba fare, quindi con un'ulteriore ansia rispetto alla difficile gestione dei tempi che hanno le donne che subiscono violenza, chiaramente. Insomma, quindi le donne adesso stanno di nuovo nuovamente in modo molto forte in mano allo Stato, in mano alla polizia. Mi viene in mente la campagna che fecero le compagne "Chi ci difende dai difensori", pensiamo agli stupri nelle caserme e pensiamo agli stupri nei CIE. Sta partendo domani in Spagna, per esempio, dopo ne parleremo magari meglio, un processo contro poliziotti che hanno abusato per anni di donne dentro i CIE, donne anche magari con un permesso di soggiorno, donne che devono solo aspettare 60 giorni per uscire, che sono state trattenute là per mesi. Quindi non sposta niente il decreto legge, ovviamente noi non ci aspettavamo ovviamente che spostasse qualcosa, però questa è l'ennesima conferma che non c'è nessuna emergenza, o almeno non c'è nessuna emergenza per come i giornali e lo Stato la stanno dipingendo. Insomma, una guerra quotidiana, costante, che sicuramente non cambierà con questo decreto. Sì, poi fra l'altro ci sono stati un po' di eventi ultimamente anche su questa cosa, nel senso, per esempio, lo stupro del Quadraro, di una donna fermata perché trovata fare un furtarello in un supermercato, così come un altro, non mi ricordo in che caserma, però mi sembra San Basile forse ultimamente, quello, sì, insomma, quello che fermava e stuprava le prostitute, insomma, serialmente dall'11 ottobre stesso le donne hanno continuato a venire uccise. L'ultima, se non sbaglio, è di ieri, che in provincia di Roma, voglio dire. Non si è mai visto che un inasprimento delle pene abbia rappresentato un deterrente per commettere i reati, tantomeno rispetto a questo tipo di reati, dove il bagaglio culturale è l'elemento preponderante, e comunque una società tendenzialmente misogena, o comunque molto legata al fatto che le donne rispettino i cliché che la società dà, voglio dire, è la cosa fondamentale. Se esci da questi cliché, in qualche modo te la vai a cercare, no? Quindi la logica, come dite voi, resta assolutamente non toccata, minimamente scalfita, assolutamente immutata. Io non so se voi state mobilitando, state organizzando delle iniziative, se magari ce ne vuoi parlare, o seppure, insomma, anche no. se vi state muovendo. Ma guarda, noi rispetto al decreto e poi anche alla successiva il fatto che sia approvazione, ecco, si vanno in alterni alla successiva approvazione, quindi passaggio in legge, e facciamo iniziative locali in qualunque posto ci chiamino a fare degli interventi. Cerchiamo di parlare delle cose di cui abbiamo parlato ora, e sicuramente la battaglia continuerà ad essere quella della richiesta di un tavolo per un piano nazionale. Non può essere altrimenti che quello. E l'altra cosa è che dopo la firma della convenzione di Istanbul si proceda a rendere applicata, poi quindi a dare le gambe a questa firma, che è molto, se resta così, è pura formalità ovviamente. Le battaglie restano le stesse. Non cambiano. Per dire, quando c'è stata la manifestazione a Piazza del Popolo in difesa della Costituzione, siamo state prese presenti con uno striscione in cui dicevamo vergogna usare le donne per reprimere il dissenso, quindi anche in quelle che sono o saranno iniziative pubbliche comunque contrarie, che vogliono spingere in maniera progressista questo governo, non mancheremo di essere presenti per manifestare il nostro dissenso. Ma oltre al lavoro che fate quotidianamente, ovviamente, insomma, senza dimenticarci di quello che è anche molto grande. Quindi non so se vogliamo concludere qui o volete aggiungere qualcos'altro, anche perché so che sei mezz'ora che ti teniamo per strada, quindi sei stata molto disponibile, avevamo detto 10 minuti. Invece sì, ok, poi sai, quando ti metti a parlare di cose con le quali ti confronti e sulle quali ragioni quotidianamente, chiaramente ti fa anche piacere condividerle, quindi insomma tranquilla, non ci sono problemi. Ok, allora mettete, le nostre sì. collaborazioni continuano. Sì, sicuramente ci sentiremo al più presto. Ti ringraziamo tantissimo e buon lavoro, grazie. Altrettanto, ciao, grazie a te. Concludendo, abbiamo controllato chi era appunto questo simpatico signore che andava appunto a stuprare le donne fermate, principalmente di pare prostitute romene che non avevano casa, e a quanto pare questo Massimo Pigozzi sarebbe anche un agente di polizia che ha partecipato a le violenze di Bolzaneto e che in particolare ha divaricato le dita di uno dei manifestanti lacerandogliele. E insomma, l'infame a tutto tondo, diciamo. Non si fa mancare niente. E invece, per ampliare questo discorso delle forze dell'ordine che stuprano e dell'aggravante di farlo appunto su donne che sono costrette perché sono recluse e quindi non possono muoversi, è un argomento di cui abbiamo parlato molto per molti fatti che sono successi anche in Italia. Adesso ne parliamo per sottolineare che questo purtroppo, insomma, non succede soltanto in questo paese, ma è un, come dire, trasversale ai conflitti. confini. Proprio domani a Malaga, insomma nella città andalusa in Spagna, si terrà la seconda udienza del processo che vede processati appunto 5 poliziotti accusati di aver abusato sessualmente di diverse donne rinchiuse nel CIE di Malaga, appunto, mentre erano in attesa del decreto d'espulsione dal paese. I fatti sono fatti del 2006, e nel frattempo questo CIE è stato chiuso per la fatiscenza della struttura. E l'avvocato dell'accusa ha raccolto molte testimonianze a carico dei poliziotti e anche prove, tra cui foto scattate con i cellulari che ritraggono gli agenti di polizia mezzi nudi, abbracciate alle detenute, e inoltre sono state raccolte testimonianze delle donne delle polizie, delle addette alle polizie del CIE, che hanno appunto visto e testimoniato su queste violenze. Oggi queste donne sono sotto protezione perché appunto hanno avuto il coraggio di testimoniare in un processo contro dei poliziotti, e queste addette alle polizie hanno dichiarato di aver trovato nelle stanze dove le donne sono state violentate preservativi e bottiglie di alcol. Praticamente questi poliziotti organizzavano dei festini all'interno del CIE approfittando del potere che avevano in quel luogo, e abusavano appunto di queste donne che oltre a essere rinchiuse in un CIE dovevano anche subire la violenza appunto dei loro aguzzini. Alcune organizzazioni non governative spagnole hanno sottolineato che questi fatti che sono venuti fuori all'interno del CIE di Malaga non sono che la punta di un iceberg sull'impunità di cui godono poliziotti spagnoli, ma non solo spagnoli, e sottolinea anche che questa impunità è incoraggiata dall'opacità e dalla mancanza di trasparenza di regole e di controlli dominanti nei CIE spagnoli, e anche qui purtroppo dobbiamo sottolineare dominanti nei CIE come istituzioni, insomma, che sono nati proprio, come dire, extra legge, insomma, sono proprio fuori da qualunque, anche, come dire, barlume del diritto della democrazia borghese, ecco, se vogliamo usare questo termine. Per quanto riguarda appunto la legge la legge che regola l'immigrazione in Spagna, i CIE dovrebbero essere strutture di carattere non penitenziario per la detenzione e la custodia a disposizione dell'autorità di soggetti per cui essere l'espulsione, cioè come in Italia, però poi sappiamo benissimo che questi luoghi sono dei carceri, sono delle galere anche terribili, insomma, non che le altre siano belle, ma a volte queste possono avere anche punte di crudezza che non si trovano altrove. Comunque per quanto riguarda il processo appunto di cui domani si apre la seconda udienza a Malaga, c'è da registrare un problema, che anche questo è un problema che abbiamo sperimentato anche in Italia, cioè che 4 di queste donne che hanno denunciato i loro stupratori sono state espulse nello stesso anno, sì, in cui hanno subito le violenze, e quindi sono irreperibili in questo momento. Non c'è modo di ascoltare le testimonianze, quindi. Non solo, però poi è stata fatta la richiesta dal presidente della corte del tribunale di ascoltarle, quindi fino a che non si trovano questi non vengano processati. In sostanza ci sono rinvii eccetera. Finito. Eccetera. Mettiamo un brano musicale. Insomma, per concludere questo spazio sul femminicidio, volevamo, insomma, dirvi anche di un appuntamento che si terrà a breve, e che appunto c'entra anche con violenza da parte delle forze degli ordini. Evidentemente stiamo parlando ancora dello stupro terribile dell'Aquila, di cui tanto abbiamo parlato da questi microfoni, e vi leggiamo l'indizione di un'assemblea cittadina. L'Aquila ci riguarda tutte, assemblea cittadina al 22 contro la violenza degli uomini sulle donne. Il 12 febbraio 2012 in una discoteca di Pizzoli in provincia dell'Aquila una giovane donna di 20 anni è stata stuprata e ridotta in fin di vita. Per questa violenza è stato processato Francesco Tuccia, un militare in servizio all'Aquila nel quadro dell'operazione Strade Sicure, inaugurata nel 2008 e imposta all'Aquila nel dopoterremoto. Con lui quella sera c'erano altri due militari, mai indagati né ascoltati, uno figlio di un vicecommissario e l'altro nipote di un magistrato. La ragazza è stata ridotta in fin di vita e le sono state procurate lesioni gravissime e permanenti. Il 18 ottobre 2012 all'Aquila si è aperto il processo, svoltosi a porte chiuse. Quel giorno eravamo lì al tribunale dell'Aquila, abbiamo presidiato quel tribunale ogni volta per dire che la violenza contro le donne, agita da uomini con o senza divisa, ci riguarda tutte. Uomini, militari, la divisa è solo l'ulteriore aggravante. Abbiamo presidiato quel tribunale perché una di noi è lì e non vogliamo lasciarla sola in una dinamica processuale che si rivela sempre e comunque contro di noi, perché è parte di un sistema che usa, sfrutta e violenta le donne per auto riprodursi. Con l'udienza del 31 gennaio 2013 si è concluso il primo grado del processo con una sentenza di condanna a 8 anni per violenza sessuale e lesioni gravi. Ad oggi Tuccia, ai domiciliari dai primi di giugno senza alcuna restrizione, sta lavorando presso un'associazione in quel di Montefredane, in provincia d'Avellino, il suo luogo d'origine. La Corte d'Appello ha stabilito per il 6 dicembre 2013 l'inizio delle udienze di appello. Tante sono le connivenze, gli intrecci e le protezioni reciproche in questa vicenda, sul piano politico e non solo. Tante sono le domande sul non coinvolgimento degli altri due militari con Tuccia quella notte, sui molteplici ruoli degli avvocati di Tuccia sul territorio aquilano e non solo, e sulle responsabilità di quello che è successo all'interno dell'ospedale la notte in cui la ragazza è stata portata lì. Tante e complesse sono le riflessioni scaturite a partire da noi, e proprio perché non crediamo nella giustizia dei tribunali, ma crediamo e pratichiamo la vicinanza e la solidarietà tra donne, sappiamo e riconosciamo che la forza delle donne dentro e fuori i tribunali ovunque viene da noi stesse e dalle relazioni con le altre, stiamo continuando a costruire un percorso di riflessione e lotta. A partire da qui invitiamo tutti a partecipare a un'assemblea cittadina il prossimo 10 novembre alle ore 12 al 22 di Via dei Volsci. Direi che salutiamo la nostra compagna delle ribellule che abbiamo sequestrato qua. Ti ringraziamo per essere stata con noi e ci risentiamo presto. Ciao a tutte. Ciao. Ciao.